Ha preso pochi voti nel 2017, però insomma è stata candidata a sindaco di una lista che si rifaceva chiaramente, diciamo, all'ideologia fascista. Se ne è parlato a Budrio anche per quello che è accaduto l'anno scorso, per una festa che doveva essere di beneficenza, mentre voi insomma non ci avete creduto, c'è stato un po' di burrasca politica e fino al, se non sbaglio, alla cancellazione di quella festa. Ti chiedo di raccontarci e riepilogarci tutto quanto. Sì, noi ponemmo il tema in consiglio comunale in maniera anche inizialmente molto costruttiva. Forse l'amministrazione, il sindaco, la maggioranza sono civici, amministrano da poco tempo, non hanno esperienza, magari non se ne erano accorti, diciamo, ecco. E quindi ponemmo il tema: guardate che dietro l'associazione Vita Peron, dietro questi simboli, dietro questa festa si nasconde una organizzazione neofascista, diciamo, con tra cui fila si spicca Selene Ticchi, che tutti conosciamo per queste posizioni. Fummo sbeffeggiati in consiglio comunale con una distribuzione del volantino che venne ritenuto innocuo, un volantino innocuo, una festa di beneficenza, non c'è niente di male. Fummo sbeffeggiati in consiglio comunale dal sindaco e dalla maggioranza, persone totalmente incompetenti di amministrazione evidentemente, ma che incompetenti anche di comunicazione, tanto è vero che per un mese e mezzo siamo stati sui giornali con una polemica surreale in cui il sindaco difendeva Selene Ticchi e noi invece dicevamo che quella festa andava annullata. Poi è stata annullata non dal comune ma dai gestori del palazzetto, quindi diciamo che la soluzione è stata trovata in un altro modo, e poi il sindaco invece nel corso di questo anno 2018 è diventato un grande antifascista, tanto è vero che sempre su nostra pressione, con circa 6 mesi di ritardo, ha approvato ciò per cui si era impegnato già a novembre con i sindacati e con l'ANPI, ha approvato un regolamento che vieta, diciamo, dare spazi pubblici comunali a forze che si richiamano al fascismo, all'ideologia fascista o ad altri totalitarismi. Quindi ecco, questa è la vicenda. È chiaro che per noi rimane un po' una macchia, ecco, perché quello che è successo l'anno scorso non ci è piaciuto, il trattamento che abbiamo ricevuto nel momento in cui abbiamo segnalato un problema, però oggi ci rallegriamo perché un ravvedimento è sempre positivo. Sappiamo che il sindaco ha dichiarato contro, in maniera molto netta, contro Selene Ticchi per la maglietta di ieri, e quindi un ravvedimento è un fatto di cui rallegrarsi. Aggiungo una cosa: noi crediamo che manifestazioni come queste non debbano essere nemmeno autorizzate, e quindi la maglietta poteva essere evitata all'origine. L'anno scorso, in occasione appunto di questa polemica, ci sentimmo e tu sostanzialmente denunciavi che attraverso il pretesto della beneficenza le organizzazioni di estrema destra cercavano di infiltrarsi nel territorio. Come dire, è continuato questo tentativo? No, la percezione è che non ci sia un radicamento. C'è un radicamento e una diffusione del pensiero, delle idee, di un razzismo strisciante, di un rifarsi continuamente a un'epoca che è un'epoca buia del nostro paese, dell'Italia. C'è un lavoro costante, che tra l'altro non avviene solo in Italia, e che però ha molta presa da queste parti e comunque sui social, che è quello di smantellare le idee, diciamo, la democrazia, l'idea della democrazia come un qualcosa che è buona e positiva per tutti, anche quando le persone stanno peggio, e anche quando c'è la crisi e quando c'è maggiore povertà. Quando si smantella quel pilastro, poi possono far breccia anche idee di tipo diverso.